Europa 24. Eccoci qua invece con le notizie dall'Europa. Avete sentito l'impatto dunque delle notizie che arrivano dalla Siria sui mercati. La Catherine Ashton, dunque l'alto rappresentante UE per la politica estera, ha parlato questa mattina a Tallinn, dove ha avuto un incontro con il ministro degli esteri locale. Dice: non ci sono ancora decisioni sulle implicazioni degli attacchi chimici in Siria. Insomma, anche l'Europa cerca di trovare una linea comune che per ora non c'è nella grande incertezza dello scenario nel sud del Mediterraneo. E parliamo invece di fondi europei. Su questo invece c'è maggior certezza. Una certezza è che li spendiamo male, li spendiamo poco rispetto ai numeri complessivi. Pochi giorni fa uno speciale del Sole 24 Ore, vi invito, potete trovare tutti i dati proprio nel sole24ore.com, sui fondi UE, diceva spesi solo 1,8 miliardi, che sembrano tanti ma sono praticamente meno della metà di quanto avremmo potuto spendere. Ieri è nata l'Agenzia per la Coesione Territoriale, che dovrà gestire i fondi appunto 2014-2020. L'idea del governo è quella di costituire una cabina di regia per appunto evitare questa attuale discrepanza in cui vediamo alcune regioni. Basterà citare la migliore, l'Emilia Romagna, che spende più del 60% di quanto potrebbe, altre, Campania e Calabria, che non arrivano al 25%. Ne abbiamo parlato con l'eurodeputata Mazzoni, contraria a questa decisione. Sentiamo perché. Dice: proprio nella disparità tra nord e sud e tra le diverse regioni, la soluzione non può essere quella della cabina di regia. Sentiamola. Io non credo che questo sia utile, perché bisognerebbe andare ad indagare le difficoltà delle singole regioni, e se la dobbiamo dire tutta, una situazione del genere non fa altro che allargare il divario tra nord e sud, perché invece di occuparsi di risolvere il problema alla radice, lo bypassa, lo mette da parte e incomincia a gestire in maniera che assolutamente non ha un ritorno sul territorio. Fino ad oggi nei territori del Mezzogiorno d'Italia, in molte regioni, i soldi sono stati anche spesi, il problema è che non si sono realizzati quegli obiettivi di crescita e di sviluppo che invece l'Unione Europea si aspetta dall'investimento di queste risorse. Perché? Perché sono state fatte delle distribuzioni di risorse che non hanno nulla a che vedere con quelle che sono le vocazioni territoriali. Io credo che l'agenzia, così come immaginata, non sia altro che un passo indietro, e dal mio punto di vista estremamente negativo. Non è mettendo su un cappello sulle inadempienze delle regioni che si riesce poi a venire a capo del problema. Io credo che il problema vada affrontato. Se ci sono regioni che non funzionano, bisogna vedere perché non funzionano, perché l'apparato burocratico non è in grado di programmare se investire adeguatamente le risorse europee, perché la parte politica non è in grado di dare la linea in maniera adeguata, ma non certo mettere su un altro organismo che non è altro che una sovrastruttura. Poi i problemi si vedranno comunque nell'attuazione se non ci sono affrontati sul livello locale. Ecco, in una battuta, onorevole Mazzoni, la questione con la decisione del governo è chiusa? Io mi auguro di no, mi auguro che questa agenzia, come il ministro stesso ha detto quando ha cercato di replicare a posizioni come la mia, possa rimanere solo un organismo di coordinamento di autonomie locali e regioni, ma che non sottragga la competenza della decisione e soprattutto dell'attuazione della spesa a chi è più vicino ai cittadini. Erminia Mazzoni, europarlamentare del gruppo del Partito Popolare Europeo, l'abbiamo sentita, la potete risentire su radio24.it come tutti i nostri programmi. Europa 24 torna domani, un saluto a tutti. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.